2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 25 e 26 dicembre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast, il servizio podcast di Radio 24, col quale potete riascoltare quasi tutti i nostri programmi, in modo particolare 2024. Come sempre ringrazio i nostri tecnici che rendono disponibile il file MP3 della nostra trasmissione poco dopo il termine della messa in onda del sabato pomeriggio. Dicevo, il servizio podcast è molto semplice. Se ancora non avete utilizzato mai un servizio di questo tipo, beh, magari le vacanze, i giorni di tranquillità di queste feste natalizie vi possono dare, insomma, l'opportunità di scaricare un software, ce ne sono tanti, alcuni li abbiamo consigliati anche sul nostro sito internet, software che permettono la gestione del podcast e quindi la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 di 2024. Visto che è Natale, visto che è il weekend di Natale, oltre agli auguri dovuti dalla nostra redazione, iniziamo dalla storia digitale della Natività. È un divertente video, vi racconto solo alcuni episodi che accadono in questo video che vi consiglio di vedere su YouTube. Basta scrivere The Digital Story of the Nativity, un video di 3 minuti già visto tra l'altro da milioni di persone che crescono di giorno in giorno. È un video che racconta la storia della nascita di Gesù, dall'annunciazione dell'angelo Gabriele che arriva via SMS sull'iPhone di Maria, e poi il viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme pianificato con Google Maps, Giuseppe che pubblica su Facebook il proprio stato, i re magi che comprano oro, incenso e mirra su Amazon, insomma la nascita di Gesù raccontata come se ci fossero tutti i più noti servizi del web 2.0. Molto divertente, molto natalizia naturalmente, ma anche fatta piuttosto bene, quindi i creatori di questa piccola e veloce storia di 3 minuti, che ripeto potete vedere su YouTube, sono stati molto bravi, perché se siete abituati a utilizzare la Gmail, i servizi di Google, Amazon, Foursquare, Facebook, Wikipedia, insomma vedete alcuni pezzetti del video che raccontano questa storia attraverso questi servizi. Tra le notizie della settimana, mercoledì c'è stato un blackout di Skype, una cosa quasi incredibile che ha colpito milioni di utenti, soprattutto europei e asiatici. Skype ha detto che gli utenti che hanno un conto e usano i servizi a pagamento verranno indennizzati per questi disservizi. Noi siamo abituati al telefono, alla maggior parte dei servizi oramai considerati primari, li diamo quasi per scontati, come l'energia elettrica, l'acqua, il telefono, servizi che funzionano quasi sempre. Oramai ci eravamo abituati anche ai servizi internet che funzionano quasi sempre, quindi molti si sono stupiti e gli stessi tecnici stanno ancora cercando di capire che cosa in realtà sia successo ai supernodi con i quali è costruita la rete di Skype. Fatto sta che per Skype non ci sono solo problemi di carattere tecnico, ma anche problemi di immagine, visto che Skype sta facendo tutte le procedure del caso per arrivare alla quotazione in borsa, dove tra l'altro conta di raccogliere nell'offerta iniziale 100 milioni di dollari, quindi un'offerta pubblica per Skype che arriverà nei prossimi mesi molto importante, e questo problema certo non ci voleva sulla strada verso la borsa. Parliamo di alcune cose di casa nostra. La scorsa settimana ricorderete che Eurostat, vi avevo letto alcuni dati pubblicati da Eurostat sullo stato della diffusione di internet in Italia. Questa settimana una fotografia di questo tipo la fa anche l'Istat, che ci racconta alcune informazioni non certo positive per il nostro paese, perché pensate che per diffusione della rete internet siamo 22esimi in Europa. Peggio di noi fanno solo Cipro, Portogallo, Grecia, Romania e Bulgaria, la Bulgaria è proprio ultima con un 33% di famiglie che accedono alla rete internet, noi siamo al 59% se consideriamo le famiglie che hanno un componente tra i 16 e i 64 anni, ma se consideriamo le famiglie in totale, la percentuale di diffusione dei collegamenti a internet scende al 52,4%. È comunque una buona notizia perché per la prima volta in Italia superiamo la soglia del 50%. Siamo però, dicevo, messi piuttosto male in classifica, 22esimi su 27, l'Olanda è il paese con la più alta percentuale, la più alta penetrazione di internet in Europa con il 91% delle famiglie connesse alla rete, paesi con i quali ci confrontiamo, la Germania, pensate, l'82% delle famiglie collegato a internet, il Regno Unito l'80%, la Francia il 74%, altri grandi paesi come ad esempio la Spagna non è messa tanto bene perché è poco più avanti di noi, anzi a pari merito rispetto all'Italia al 59%, però dalla nostra posizione alle prime posizioni europee c'è una differenza piuttosto elevata. Altri dati, ce ne sono tantissimi che potete vedere e leggere sul sito internet dell'Istat, ma giusto per capirci, oltre all'accesso a internet, che è sicuramente un dato importante, la diffusione dei computer sale nelle famiglie italiane al 57,6%, percentuale che sale al 74,7% nelle famiglie dove ci sono dei teenager, quindi minori di 18 anni, e naturalmente questa non è certo una novità che nelle famiglie dove ci sono dei ragazzi giovani la percentuale di computer e anche di accesso a internet è più elevata. C'è un dato interessante tra, ripeto, i tanti che vengono inseriti in questa ricerca presentata in settimana dall'Istat, che racconta dell'Italia, del rapporto tra cittadini e nuove tecnologie. Dicevo, l'altro dato interessante è che non sempre la mancanza di internet in casa è dovuta alla mancanza di infrastruttura, cosa di cui ci lamentiamo spesso, cioè alla mancanza dell'ADSL o per i più fortunati della fibra. Ma pensate che tra le famiglie che hanno risposto a questa indagine dell'Istat, 4 su 10 dichiarano di non avere internet perché non sono capaci di utilizzarlo, comunque non sanno cosa farne. Questo sicuramente è un dato preoccupante perché, lo abbiamo detto altre volte, non c'è solo e non ci racconta solo di un digital divide, ma di quello che gli esperti chiamano cultural divide, quindi un divario e un problema culturale nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Parliamo di un'altra notizia della settimana, sapete perché sicuramente avete seguito GR24 in questi giorni, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto mille proroghe. Tra le proroghe che non sono state fatte ce n'è una importante che riguarda la rete Wi-Fi, cioè non è stata prorogata una parte del famoso decreto Pisano, quello che vincolava e di fatto scoraggiava la diffusione delle reti Wi-Fi in ambito pubblico. Ne parliamo con l'avvocato Guido Scorza, che saluto, bentornato a 2024. Grazie mille dell'invito. Ricordiamo che l'avvocato Guido Scorza, oltre ad occuparsi di questi temi, ha anche un blog sempre molto aggiornato e anche attento, con commenti molto puntuali sulla materia, non solo su Wi-Fi ma sulla rete internet in generale. Allora, partiamo proprio dai provvedimenti che sono stati adottati o non adottati, perché anche questo è un modo per legiferare. Non è stata abrogata una parte del famoso decreto Pisano, giusto? Esatto, è corretto. Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di abrogare espressamente una parte dell'articolo 7 del decreto Pisano, in particolar modo quelle disposizioni che imponevano un obbligo di identificazione attraverso carta d'identità degli utenti, nonché quelle che imponevano ai gestori di bar, ristoranti e altri esercizi pubblici di conservare la registrazione dei file di log relativi all'attività di navigazione online dei propri clienti. Rimane invece in vigore quella parte dell'articolo 7 del decreto decreto Pisanu, che imponeva e continua quindi ad imporre a tutti i gestori di esercizi pubblici l'obbligo di richiedere una speciale autorizzazione prima di iniziare l'attività di condivisione al pubblico delle risorse di connettività Wi-Fi. Quindi se ci immedesimiamo in un cliente di un locale pubblico, che sia una libreria o sia un bar o un hotel, qualsiasi altra cosa, possiamo dire che dal 1 gennaio, quindi tra pochi giorni, chi entra in un locale di questo genere può utilizzare la rete, ammesso che il gestore di questo locale pubblico la mette a disposizione, però non capisco perché debba tenere una rete e chiuderla al pubblico. Diciamo, uno entra in un locale di questo genere, potrà navigare senza nessun tipo di problema vincolo, giusto? Non c'è nessun dubbio, dal 1 gennaio certamente non gli sarà più richiesto, salvo che questa non sia una scelta autonoma del gestore dell'esercizio pubblico, di farsi identificare, potrà iniziare a navigare. Certo, se questa sarà la politica del gestore, potrà anche essere tenuto a pagare un corrispettivo, ma quel che è certo è che non dovrà più farsi identificare con la carta d'identità, come viceversa accadeva sino a ieri. Poi parliamo anche di scenari possibili, visto che negli ultimi giorni molti mi fanno domande su quello che potrà accadere dal 1 gennaio, comunque dalle prime settimane del prossimo anno. Prima però vorrei concludere questa parte relativa alle norme chiedendoti e cercando di capire a che cosa serve a questo punto un disegno di legge che è stato presentato da una decina di giorni, diciamo così, che puntava a liberalizzare il Wi-Fi. A questo punto è inutile? Bah, direi che sulla partita del decreto Pisanu sono sicuramente passate delle settimane piuttosto convulse, in cui tutte le strade sono state tentate. Il disegno di legge, ammesso che non verrà ritirato, ammesso che rimarrà e proseguirà il suo iter, avrà come unico obiettivo a questo punto quello di portare, di condurre anche all'abrogazione di quella parte delle disposizioni del Pisanu che per l'appunto impongono ai gestori di richiedere una autorizzazione prima di iniziare l'attività di messa a disposizione del pubblico delle risorse di connettività. Altra utilità non ne avrà certamente. Dunque, abbiamo detto che dal 1 gennaio non ci saranno più questi vincoli, non ci sarà più la necessità di dover mostrare la carta d'identità per essere schedati per navigare in internet in un luogo pubblico dove c'è un wifi, però va detto e va sottolineato, non aspettiamoci un'esplosione di reti wifi ovunque in Italia. Certo, sono venuti meno alcuni vincoli che scoraggiavano la nascita di queste reti, ma c'è un problema culturale di molti gestori di locali pubblici che non ne capiscono l'utilità, sbagliando, e poi c'è un problema anche di budget della pubblica amministrazione. Tutti i progetti, tranne qualche caso in Italia, ma sono veramente pochi, tutti i progetti di reti pubbliche metropolitane oppure anche reti pubbliche in alcuni locali della pubblica amministrazione, che ne so, biblioteche, ripeto, a parte alcuni casi, sono stati riconsiderati proprio per problemi di budget. Quindi non penso ci sarà un'esplosione di reti wifi ovunque dal prossimo anno. Perfettamente d'accordo, guai a pensare all'abrogazione del decreto Pisanu come la panacea di tutti i mali della rete italiana o della digital divide nel nostro paese. Il decreto Pisanu rappresentava un ostacolo di tipo essenzialmente culturale allo sviluppo di internet nel nostro paese. Rimosso quell'ostacolo ovviamente c'è da iniziare un percorso di alfabetizzazione, di diffusione della cultura del wifi pubblico, che non sarà certamente un qualcosa che accadrà in tempi immediati. Quindi inizia adesso un'avventura vera per il Paese. A questo punto, venuto meno un ostacolo, possiamo pensare di condividere le risorse di connettività pubbliche. Tocca a ciascuno di noi evidentemente iniziare ad esigere, da richiedere questa possibilità di modo nuovo di vivere lo spazio pubblico. Uno dei grandi problemi che ha il paese, oltre a quello di tipo culturale che tu ricordavi, è quello della diffusione dell'infrastruttura fisica e fissa per connettere tutti gli italiani alla banda larga. Per quale motivo sulla liberalizzazione del wifi quasi tutte le forze politiche, direi tutte le forze politiche in qualche modo hanno fatto sentire la propria voce, mentre sulla diffusione della rete, quella vera, fisica, in fibra ottica, il dibattito è veramente poco acceso, se non inesistente. Allora vorrei sapere, ma ne parleremo tra poco, per quale motivo c'è stata tutta questa attenzione positiva, senza dubbio, sul Wi-Fi pubblico. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci risentiamo tra un minuto. Stiamo parlando della liberalizzazione del Wi-Fi in ambito pubblico, promessa dal ministro dell'Interno Maroni, e quindi la promessa è stata mantenuta, nel senso che non sono state prorogate nel decreto mille proroghe alcune delle norme del famoso decreto Pisano, che quindi di fatto fanno decadere quegli obblighi, ad esempio di dare la carta d'identità al gestore di un locale pubblico per navigare in internet. Vedremo poi che cosa succederà dal primo gennaio, perché non c'è, come dicevamo, da attendersi un'esplosione di reti Wi-Fi, ma certo vengono meno alcuni vincoli che scoraggiavano questa diffusione. Tra l'altro questa è una battaglia fatta da molte forze politiche, e proprio su questo punto volevo chiedere ancora un parere all'avvocato Guido Scorza. Per quale motivo su un problema ben più grande, che è la diffusione della rete internet, soprattutto dell'infrastruttura internet e della costruzione di una nuova rete in fibra ottica, del superamento del digital divide, insomma questo è un vero grande problema ed è una vera e propria sfida per il nostro paese, per la crescita economica anche delle nostre aziende. Ecco perché su questo c'è un dibattito quasi inesistente, e invece sul Wi-Fi c'è stato un dibattito accesissimo. Perché questa grande attenzione sul Wi-Fi pubblico? Bah, diciamo che intanto l'attenzione sul Wi-Fi pubblico è il portato di ben 5 anni, direi, di discussioni e di battaglie che vengono dal basso. Quindi sì, è vero, tutte le forze politiche oggi ci sono arrivate, ma hanno impiegato 5 anni. Per quanto riguarda invece il problema legato alle infrastrutture, io temo che un primo aspetto importante da tenere in considerazione sia quello economico, cioè abrogare il decreto Pisano è un'operazione a costo zero, diffondere le risorse di connettività, le infrastrutture di connettività è un'operazione che costa centinaia di milioni di euro. Dall'altra parte non c'è nessun dubbio che gli interessi economici in gioco sul piano delle infrastrutture della banda larga nel nostro paese sono di ben maggior rilievo rispetto a quelli che sono stati pur coinvolti nella partita del decreto Pisano. Quindi direi che c'è un freno diffuso probabilmente di carattere economico ed imprenditoriale che in realtà non determina la più parte delle forze politiche ad occuparsi seriamente del problema, perché ognuno naturalmente è schierato da una parte piuttosto che dall'altra. C'è poi il grande tema comunque della difficoltà con la quale sin qui perlomeno la politica ha compreso che il digitale può davvero rappresentare o dare al paese una marcia in più. Da questo punto di vista eclatanti sono le dichiarazioni ancora oggi del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, che qualche mese fa appunto disse che l'investimento in banda larga questo paese lo avrebbe fatto solo dopo l'uscita dalla crisi, mentre sappiamo perfettamente che nel resto d'Europa si sta ragionando in maniera diversa, ovvero si investe in banda larga per uscire dalla crisi. Certo, anche perché ci sono dei dati molto concreti, molto chiari, che ci dicono che investire in questo tipo di infrastrutture porta un beneficio alla produttività del paese, soprattutto anche alla qualità di questa produttività. Insomma, un conto è innovare grazie alla banda larga, un altro è continuare a produrre come si faceva 20-30 se non più anni fa. Un'ultima domanda prima di salutarci. Sappiamo che il decreto Pisano era stato adottato in funzione antiterrorismo e la ragione per cui bisognava tracciare o comunque prendere nota dei documenti di identità di tutte le persone che utilizzavano una rete pubblica era che se un terrorista o comunque un malintenzionato utilizzava quella rete per inviare minacce, progettare addirittura attentati, era possibile si fa per dire, perché poi bastava falsificare la carta d'identità, comunque era possibile risalire alla persona che aveva commesso quell'illecito. Questo problema rimane, si può risolvere o è un falso problema, come del resto alcuni esperti continuano a dire, perché basta appunto falsificare una carta d'identità, entrare in un negozio, comprare una SIM di telefonia mobile e da lì si può fare tutto quello che si vuole. Ma io direi che probabilmente il pericolo, come dire, c'è sempre stato, rimane e quindi non è sicuramente venuto meno soltanto per magia o per effetto dell'abrogazione del Pisano. Il problema vero è sempre stato rappresentato dalla circostanza che le norme contenute nel decreto Pisano non sono mai state ritenute efficaci a scongiurare questo rischio o questo pericolo. Quindi è sempre stato ritenuto piuttosto difficile ipotizzare che un terrorista avesse bisogno di un punto pubblico di connettività di internet per porre in essere chissà quale attentato e soprattutto che si sarebbe lasciato identificare dando il suo vero documento d'identità. Non c'è nessun dubbio però che un problema di imputazione delle condotte poste in essere attraverso internet c'era ieri e rimane oggi, è un problema che va evidentemente affrontato cercando di bilanciare però il diritto alla privacy del cittadino onesto che utilizza internet e invece l'esigenza di reprimere delle violazioni della disciplina vigente da parte di potenziali terroristi o comunque autori di condotte illecite. Da questo punto di vista probabilmente ipotizzare forme di monitoraggio successivo piuttosto che forme di schedatura a priori risulterebbe sicuramente un possibile approccio insomma, che tenga conto di questo necessario bilanciamento di interessi. Grazie all'avvocato Guido Scorza, oltre che buon lavoro anche buone vacanze e buone feste. Grazie altrettanto. Adesso cambiamo argomento, parliamo di neutralità della rete, un tema che potrebbe sembrare molto difficile, molto complesso, in realtà il tutto si traduce nell'esperienza quotidiana della rete internet. Oggi siamo abituati ad una rete internet che sostanzialmente è neutrale, così come una strada, tutti possono andare in strada vestiti di rosso, di blu, di azzurro, di nero e per le strade basta rispettare il codice della strada, tutte le automobili possono circolare liberamente. La società Autostrade non vieta ad esempio alle automobili di colore rosso di transitare. Ecco che cosa potrebbe succedere sulla rete internet se non fosse neutrale. Alcuni servizi a discrezione dell'operatore di rete potrebbero essere bloccati oppure rallentati e questo potrebbe capitare anche al nostro sito web personale o ad esempio al nostro blog o ad alcuni servizi magari utilizzati da moltissime persone che non piacciono troppo all'operatore di telefonia che ci fornisce il servizio ADSL. Stiamo parlando di cose possibili che in qualche caso sono già avvenute o stanno per avvenire. Negli Stati Uniti sono stati presi alcuni provvedimenti questa settimana, c'è stato un dibattito molto forte. Allora, per parlare di tutto ciò è con noi Vittorio Bertola, che è uno degli animatori di NN Squad Italia, un'associazione di ingegneri, di informatici che si preoccupa per la neutralità della rete. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Partiamo proprio dai provvedimenti che sono stati presi negli Stati Uniti. Che cosa ha deciso la FCC, la Federal Communication Commission, che è la corrispondente, potremmo dire così, dell'Agenzia Italiana per le Comunicazioni? La Commissione americana introduce tre regole. La prima è sostanzialmente un principio di trasparenza per cui i consumatori devono essere informati delle caratteristiche del loro accesso a internet. La seconda è una regola di non bloccaggio, secondo la quale gli operatori non hanno il diritto di bloccare i servizi legali a cui gli utenti vogliono accedere e non hanno il diritto di impedire l'accesso a determinati siti purché appunto siano legali. Questa però è stata differenziata per cui vale in senso assoluto per i fornitori di accesso fisso, vale soltanto limitare limitatamente ad alcuni servizi per i fornitori di accesso sul mobile. L'ultima regola, che invece vale soltanto per gli operatori fissi, è la regola della non discriminazione irragionevole, ovvero secondo cui gli operatori non possono fare differenze a seconda della destinazione delle comunicazioni, ovvero ad esempio non possono rendere più veloce la connessione verso un determinato motore di ricerca e rallentare invece la connessione verso un altro motore per privilegiare magari per accordi commerciali uno dei due. Per quale motivo negli Stati Uniti è stato necessario arrivare alla definizione di regole di questo tipo? L'obiettivo è cercare di proteggere lo spirito di Internet come è sempre stato fin dalla sua nascita. In particolare il problema è che gli operatori di accesso vorrebbero poter discriminare i servizi a cui accedono i loro utenti per aumentare le proprie entrate, facendo pagare non soltanto l'utente che paga l'abbonamento a Internet, ma anche il fornitore di servizi, per cui vorrebbero ad esempio poter chiedere a una Google di pagare degli altri soldi a loro fornitore di accesso per avere magari un accesso privilegiato agli utenti, quindi per permettere agli utenti di accedere al loro servizio in modo veloce. Oppure semplicemente vorrebbero farsi pagare per non bloccare questo servizio, quindi dire a Google: o tu mi dai dei soldi oppure io rendo inaccessibile il tuo motore di ricerca e magari costringo i miei abbonati a usare il mio. Quindi questo è il problema che conferirebbe ai fornitori di accesso un potere di controllo abbastanza spinto su cosa fanno gli utenti, quindi non sarebbero più gli utenti a scegliere il servizio più competitivo o magari anche la fonte di informazione considerata più libera, più obiettiva, ma sarebbe il loro fornitore di accesso a decidere per loro quale giornale devono leggere, quale motore di ricerca utilizzare, quale webmail utilizzare e così via. Non basta o non basterebbe il mercato per far sì che la rete rimanga neutrale così come la conosciamo più o meno oggi? Mi chiedo, se un operatore domani mattina mi dicesse: io non ti permetto più di utilizzare Skype, io cercherei nel più breve tempo possibile un altro operatore che mi fornisca l'accesso a Skype. Ecco, il mercato da solo non basta, ammesso, e questo lo diamo più o meno per scontato, che ci sia una libera concorrenza tra operatori, che purtroppo non sempre è vero. Ma no, evidentemente non basta, proprio perché fenomeni di questo tipo hanno cominciato a verificarsi, per cui la FCC è intervenuta a fronte di casi concreti di tentativi di imporre questo tipo di regole. Infatti, se pensiamo anche solo in Italia, il 95% degli abbonamenti internet fissi viene fatto dai primi 5 operatori, quindi di fatto bastano 4-5 grandi operatori che si mettono d'accordo per determinare quello che possono o non possono fare gli utenti. Quindi per questo motivo il mercato è poco efficace, perché in tutto sommato la scelta di operatori è abbastanza ristretta. Quindi questo significa che anche in Europa o in Italia sarebbero necessarie regole di questo tipo? Probabilmente sì, nel senso che i problemi si stanno verificando qui esattamente come si sono verificati negli Stati Uniti. Forse noi siamo a livello legislativo un po' più indietro, questo in particolare in Italia, forse più ancora che negli altri paesi europei. Siamo un po' meno a livello legislativo al passo coi tempi, e quindi è un problema che ancora non si è posto, perché noi siamo ancora inseguendo il wifi libero e altri temi, insomma. Però sicuramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anche noi ci dovremo porre il problema se darci delle regole a garanzia della neutralità della rete. Senti, possiamo fare degli esempi per fare capire quello che potrebbe succedere? Diciamo, in linea generale tu hai già risposto a questa domanda, però ad esempio io oggi posso utilizzare Skype, ho utilizzato Skype perché questo è un servizio che in effetti sulle reti mobili viene in alcuni casi bloccato, però se rimaniamo nell'ambito della internet su ADSL, su rete fissa, posso utilizzare Skype normalmente senza grossi problemi. Potrebbe succedere che un operatore mi blocchi Skype perché magari va in conflitto con il servizio di telefonia che lo stesso operatore mi offre? Di fatto questo già succede, già oggi in Italia quasi tutti gli operatori mobili, per diciamo, l'accesso a internet di livello più basso, di costo più economico, bloccano il servizio di Skype e i servizi di telefonia via internet, proprio perché chiaramente se io sulla mia chiavetta mobile uso Skype probabilmente userò di meno le chiamate cellulari e quindi l'operatore mobile ci perde. Questo tra l'altro è proprio una delle cose che sono state vietate dalla FCC con queste regole, dicendo che se gli operatori cellulari vogliono continuare a fare soldi con le chiamate voce devono offrire un servizio che sia competitivo anche con la tecnologia più moderna, quindi non bloccare l'innovazione, cioè in questo caso i nuovi servizi di telefonia via internet, perché non riescono a stare dietro, ma rendere il proprio servizio voce competitivo o magari passare direttamente anche loro alla telefonia via internet. Questo potrebbe capitare anche per altri servizi, che ne so, un grande negozio di elettronica di consumo che vende online potrebbe non raggiungere un accordo con un grande operatore e magari la telecom di turno dice: vabbè, io non faccio accedere ai miei clienti ad Amazon. Sì, per esempio queste sono altre possibilità, così come magari possono esserci discriminazioni più sottili, per cui magari io ti faccio accedere ad Amazon, ma se vuoi accedere ad Amazon devi pagarmi magari 5 euro in più al mese. Allora è chiaro che molti diranno, beh, magari uso l'altro che non mi costa questi 5 euro in più, e così via. Il primo caso forse in Italia risale ormai a 5-6 anni fa, accade proprio con Telecom, quando tutti gli utenti di Telecom Italia DSL, quando aprivano il loro browser, inserivano qualunque indirizzo, qualunque sito cercassero di raggiungere, venivano rediretti a un sito di e-commerce di Telecom dove cercavano di vendergli sostanzialmente dei prodotti. Quindi questo esperimento durò poche settimane, proprio perché furono i clienti stessi, anche in Italia, a lamentarsi e dire non è giusto, se io voglio andare su un altro sito, perché devi impormi di passare dal tuo motore o dal tuo sito di e-commerce. Quindi diciamo in questo caso c'è stata una reazione dei clienti che ha impedito la prosecuzione del servizio, però se queste cose vengono fatte magari in accordo da tanti operatori, diventa più difficile anche per i consumatori potersi difendere da soli. Senti, mi sembra che lo stato del dibattito in Europa a Bruxelles non sia così evoluto come negli Stati Uniti, sbaglio? No, in effetti non è così evoluto, forse l'Unione Europea è ancora più attenta alle questioni che sono emerse un po' prima, diciamo alla fine degli anni 90, legate alla proprietà intellettuale, al copyright, al peer-to-peer, quindi forse al momento è più attenta a regolamentare questo genere di temi, mentre questa roba della neutralità della rete non è ancora arrivata forse in agenda, anche se ad esempio la Commissione Europea negli scorsi mesi ha lanciato una consultazione pubblica per cui tante organizzazioni di ogni genere, sia gli operatori che poi associazioni in profit, anche noi come siamo avvocati dell'interesse degli utenti, abbiamo risposto mandando un parere alla Commissione Europea dicendo se secondo noi ovviamente la neutralità della rete è da proteggere, oppure magari esponendo altri ragionamenti. Quindi siamo a uno stadio preliminare, può darsi che la Commissione Europea poi proponga una direttiva nei prossimi 1 o 2 anni, però effettivamente siamo più indietro rispetto agli Stati Uniti. Senti, un ultimo giudizio su quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. A vostro giudizio, come NN Squad, quello che la Commissione federale per le comunicazioni ha deciso è sufficiente o sono regole molto generiche che possono essere raggirate facilmente dagli operatori, quindi gli operatori continueranno a fare un po' quello che vogliono? Sicuramente è un primo passo importante, questo è positivo. Altrettanto sicuramente è una soluzione di compromesso, perché c'è stata chiaramente una reazione forte da parte di tutti gli operatori che vorrebbero invece non avere regole in questo campo. Quindi per arrivare a una piena protezione della neutralità della rete sarà necessario che poi vengano estese queste garanzie non solo agli accessi fissi ma anche agli accessi via cellulare, che costituiscono sempre di più una fetta crescente delle modalità con cui le persone si connettono a internet. Quindi sicuramente è un primo passo positivo, c'è ancora molto da fare, però almeno è un passo nella direzione buona. Bene, grazie e buone feste. Grazie e buone feste a tutti. Riprende 2024 la seconda parte, ancora un augurio di buone feste dalla nostra redazione, che potete raggiungere se volete scriverci una email al nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it, quindi 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre ai nostri tecnici. Tra poco, al termine della nostra trasmissione, sarà disponibile il file MP3 della puntata di oggi attraverso il servizio podcast di Radio 24. Trovate tutte le informazioni online www.radio24.it. Adesso parliamo di sicurezza dei dati in mobilità, cioè parliamo sia di telefonate ma anche poi di email criptate, che quindi non possono essere intercettate. Pensate quanto tempo la politica ha perso in discussioni, tra poco capirete, inutili, per cercare di evitare che vengano intercettate le telefonate. Bene, basta un piccolo e semplicissimo software che costa tra l'altro poche centinaia di euro all'anno, e se uno ha l'esigenza di far delle telefonate in segreto forse poche centinaia di euro le può spendere. Bene, basta pochissimo per rendere inintercettabile, proprio tecnologicamente impossibile da intercettare, una telefonata. Saluto Carlo Marchini, che è amministratore delegato di CAMSA Italia. Benvenuto 2024. Grazie. Voi siete un'azienda specializzata in crittografia, quindi nella protezione dei messaggi vocali, di telefonate anche. Noi parliamo molto spesso di applicazione. Questo è un tema di cui si parla molto. Anche voi, potremmo dire, siete entrati nel settore, nel mercato delle applicazioni, per, sempre nell'ottica del vostro business, per proteggere le comunicazioni. Di fatto avete due anime, vi state focalizzando, anche perché il business forse è più interessante, più grosso, nel settore della mobilità, quindi della telefonia mobile, però diciamo e spieghiamo quali sono le due anime, cioè proteggere messaggi, quindi renderli inintercettabili o comunque segreti sia via mail sia via voce. In che senso? Esattamente, l'azienda si occupa a 360 gradi, come dicevi, di sicurezza. Ciò vuol dire che attraverso i nostri sistemi permettiamo di rendere totalmente crittografate le mail con un prodotto che chiamiamo Private Mail, o le telefonate cellulari con un prodotto che si chiama Private GSM. Ad oggi stiamo sviluppando, direi in maniera anche molto veloce ed aggressiva, il sistema di criptazione delle telefonate mobili, perché è quello che in questo momento ci sta dando più soddisfazioni e abbiamo più ritorni dal mercato, non trascurando l'altra applicazione per la criptazione delle mail, che sta andando avanti ed è un progetto molto interessante, in quanto è per certi versi simili ad altri prodotti come PGP, ma da un livello di sicurezza decisamente superiore, direi mai raggiunto fino a questo momento a livello di criptazione di messaggi. Sì, tu hai citato PGP, che è forse il programma, esiste anche da parecchi anni, di crittografia più utilizzato. Lo si può utilizzare anche molto semplicemente, forse addirittura è gratuito, se non sbaglio. È gratuito, open source, per gratuito. Un utilizzo base, esatto. Sì, però questo vuol dire che il mercato è già un mercato conosciuto, cioè non stiamo parlando, certo. La crittografia non è una cosa dell'altro ieri, ma è un mercato dove lo sviluppo fa la differenza. Chi può, se io sono un utente privato o un professionista o addirittura una persona che lavora in una grande azienda o un politico ad esempio, chi può intercettare una mia email? Perché uno potrebbe dire, ma l'email come fanno le persone a intercettarla? Certo, ci sono, diciamo che il discorso è bivalente sia per quanto riguarda le mail che per quanto riguarda le telefonate mobili. Sì, poi magari parliamo della mobilità, adesso ci concentriamo sulla mail. Per quanto riguarda la mail ci sono diverse tecniche che vanno da tecniche molto semplici a tecniche molto molto raffinate per andare a intercettare una mail. Banalmente diciamo che il metodo più semplice in assoluto è quello che presuppone l'accesso diretto al PC della persona di cui voglio intercettare le mail, e con sistemi per andare a scovare le password di questa persona, che chiaramente sono salvate all'interno di quel PC, riesco tranquillamente ad aprirne il client e a visualizzare le mail. Questo, diciamo, è il metodo più semplice. Il metodo più sofisticato e complesso, quindi dall'altra parte, è quello invece del cosiddetto man in the middle, ovvero il fatto che io posso simulare di essere il tuo antagonista, quindi la persona che deve ricevere un tuo messaggio, anche se in realtà non lo sono, intercetto la mail che in quel momento sta transitando online, la posso leggere, la mail comunque arriverà al destinatario a cui tu hai mandato il messaggio, di conseguenza per te e per il destinatario tutto è esattamente come prima e non ti accorgi di nulla. In realtà io mi sono messo in mezzo e sono riuscito a, in gergo si dice, sniffare il traffico e di conseguenza riuscire a leggere la mail. Senti, questa è una cosa alla portata di esperti, ingegneri molto competenti o quasi di tutti? Beh, dipende sempre dal livello di sicurezza di cui ho bisogno, nel senso che se io sono una persona privata che manda le mail al proprio amico sul weekend da pianificare, è un conto. Se io sono una grande azienda che ha ad esempio uno sviluppo prodotti molto particolare, un'azienda molto innovativa con dei piani anche finanziari molto complessi e riservati, a quel punto credo che un antagonista, di conseguenza intendo un concorrente, possa mettere in campo anche tecniche e di conseguenza competenze che possono essere trovate sul mercato. Quindi tutto si trova, insomma. Sì, tutto dipende dal livello a cui ci stiamo. Quindi esiste un mercato di intercettatori, potremmo dire. Assolutamente, nel senso che ci sono persone con competenze tecniche di un certo livello e chiaramente, come in tutti gli ambiti, è un mercato, di conseguenza c'è una domanda, un'offerta. Quindi il vostro prodotto che è un software, sì, lo devo installare sia sul computer di chi invia l'email e anche su quello di chi riceve l'email, giusto? Non per forza, questa infatti è una delle innovazioni del nostro software, nel senso che io è molto complesso, nel senso io posso installare il client vero e proprio sul mio PC, il client si auto-installa in una cartella. Da quel momento io posso collegarmi, scrivere un messaggio. Nel momento in cui chiudo il programma si autocancella da quella cartella e vengono cancellate tutte le tracce che sono state lasciate su quel computer. Questo vuol dire che io posso tenere il programma su una chiavetta USB e dal computer di un mio amico, piuttosto che di un collega, piuttosto che di un internet point, posso mandare la mia mail criptata, togliere la chiavetta ed essere certo che su quel computer non è rimasta traccia di quello che io ho scritto. Ho capito, però per riceverla per devo riceverlo, avere la stessa cosa. No, posso benissimo inviarla ad una persona che non ha il mio client. Questa persona riceverà un link che andrà ad aprire in maniera sicura un sito web nostro sul nostro data center, che gli permetterà di leggere la mail e di rispondere a questa mail. Di conseguenza, il grosso vantaggio di un sistema come il nostro è che non presuppone il fatto che entrambe le persone abbiano questo software, chiarissimo, ma una sola può averlo. Chiarissimo. Senti, per quanto riguarda invece il mobile, qua parliamo di protezione della voce, quindi delle telefonate vere e proprie. Di fatto la vostra è un'applicazione che io posso installare sul telefonino. Allora facciamo un po' il punto della situazione. Allora, che cosa serve e che cosa fa questo certo software? Allora, il software per la protezione delle telefonate mobili si chiama Private GSM. Come ho appena detto è un software, quindi un'applicazione che io installo sul mio cellulare. Questo è il primo grosso vantaggio, nel senso che ci contraddistingue da tutta una serie di attori o di aziende che propongono sistemi simili su hardware proprietario. Sì. Quindi noi diamo un software che viene installato sul tuo cellulare, altre aziende invece vendono a tutti gli effetti un hardware con il software precablato, preinstallato sul cellulare, con costi anche ovviamente di altro tipo. Sì. Noi abbiamo deciso di muoverci sullo sviluppo di un'applicazione per tutta una serie di motivi, per cui ad esempio siamo slegati dalla piattaforma. Viene utilizzato a livello governativo, lo stiamo proponendo in tutto il mondo, direi con grandi successi. Viene utilizzato a livello governativo da dipendenti del governo piuttosto che da persone politiche. Perché di fatto questo software che cosa fa? Questo software è tanto semplice per l'utente che lo utilizza quanto complesso e complicato, direi, per quanto riguarda lo sviluppo o ciò che sta dietro. Sì. È un software, come puoi immaginare, veramente complesso, perché permette nel giro di un paio di secondi di creare una chiave di criptazione sul mio cellulare, mandare il flusso voce, decrittarlo sull'altro cellulare e alla fine della chiamata distruggere le chiavi. Questo vuol dire che ad ogni chiamata vengono ricostruite delle chiavi e per questo è non intercettabile, o perlomeno è intercettabile ma non comprensibile, nel senso che se io utilizzo una qualunque tecnica per intercettare una chiamata tra me e te con Private GSM, sono in grado di ascoltare ma sentirò rumore, quindi non posso comprenderne il contenuto. In questo caso io devo installare il software sia sul telefono di chi chiama sia su quello del ricevente. Allora, a livello che noi chiamiamo professional, quindi per l'utilizzo da parte di professionisti quali medici, avvocati, notai e quant'altro, ho una funzionalità molto interessante, ovvero io posso scaricare il software, comprarne una licenza e installarlo sul mio cellulare. Sì. Dopodiché all'interno del software ho un tasto che con scritto invita, posso invitare te, a te arriva un SMS in cui c'è scritto: guarda che Carlo vuole avviare una telefonata criptata, accetti, scarica questo software in versione receive only. Ciò vuol dire che a livello che in maniera totalmente gratuita tu per sempre potrai ricevere telefonate criptate. Per farne dovrai anche acquistare il software. Senti, anche in questo caso vorrei farti una domanda. Come nel caso della email, chi può intercettare una telefonata al di là di quelle che vengono ordinate dal giudice, quindi vengono di fatto eseguite tramite le infrastrutture degli operatori? In altro caso? Allora, anche qui ci sono, magari ti parlo dei due estremi, la metodologia, il metodo più semplice in assoluto e quello più complesso e complicato, più raffinato in assoluto. Dunque, quello più semplice è l'accesso fisico al cellulare. Quindi se tu ad esempio adesso ti muovi da questo studio e lasci il cellulare sul tavolo, io potrei banalmente collegarmi con il tuo browser a un sito che permette di scaricare sul tuo cellulare un softwareino, tu non te ne accorgi, da quel momento tutte le volte che tu chiami qualcuno metti in conference call me, quindi io sarò sempre in ascolto sulle tue chiamate. Quindi come fosse un virus che tu installi nel genere. Mio computer, lui sniffa tutto quello che esattamente. Questo diciamo è il metodo più semplice e per certi versi più difficoltoso, perché devo avere accesso fisico al tuo cellulare. Sì. Si arriva poi dall'altra parte a sistemi molto più complessi ed efficienti, in cui io riesco a tutti gli effetti a simulare la cella a cui tu ti stai collegando e riuscire a intercettare il tuo traffico telefonico. Anche in questo caso tutto è proporzionale al livello di sicurezza di cui io ho bisogno. Quindi chiaramente se sono una grande azienda che magari è quotata in borsa, il top management deve parlare di piani finanziari, nuovi prodotti, strategie e quant'altro, probabilmente o magari un concorrente potrebbe mettere in campo le risorse necessarie per poter fare un'intercettazione di questo secondo tipo. Fermo restando che quella di primo tipo è molto molto più semplice. Certo, però mi dicevi prima che questa seconda modalità non costa centinaia di migliaia di euro. Si parla di un mercato che propone queste soluzioni a qualche migliaio di dollari al giorno. Sì. Cioè vuol dire che se io sono un'azienda di un certo tipo, per poter sapere piani di un'altra azienda probabilmente sono disposto a spendere 3, 4, 5 mila dollari o euro, insomma, al giorno per poterlo fare. Bene, io ringrazio Carlo Marchini per essere stato con noi. Buon grazie lavoro, a presto. Grazie mille. Noi facciamo una breve pausa, un minuto, poi riprendiamo questa puntata per l'ultima parte. Ultima parte di 2024 in questa giornata di Natale 2010, naturalmente gli auguri ancora una volta dalla nostra redazione, da tutta Radio 24. Parliamo di commercio elettronico, saluto Alessandro Perego che è responsabile scientifico dell'osservatorio e-commerce business to consumer realizzato da Netcom e dalla School of Management del Politecnico di Milano. Benvenuto 2024. Grazie. Partiamo proprio dalla definizione di e-commerce, quello che voi definite business to consumer, cioè parliamo del commercio elettronico, cioè di quella di quel grande canale di vendita, che ne so, io vado, compro un libro o compro un computer online, stiamo parlando di quello, giusto? Esattamente di quello, però non solo prodotti, anche servizi, quindi anche assicurazioni, anche biglietti ferroviari, biglietti di treno. Anzi, forse la parte di servizi è quella che anche in questa ultima analisi che voi avete presentato è la parte preponderante. Assolutamente sì, questo è un fenomeno un po' peculiare dell'e-commerce in Italia. Oltre il 50% è a vendita di prodotti di turismo, 70% di questo è vendita di biglietti ferroviari o biglietti del treno, quindi treno aereo. Un'altra parte non indifferente, però più piccola, riguarda prenotazioni alberghiere o ad esempio la vendita di pacchetti viaggio. Un'altra parte non irrilevante è la vendita di RC auto, quindi prodotti assicurativi. Su questo torneremo, sulla vendita di servizi in modo particolare legati al turismo, visto che si dice spesso che noi siamo un paese a vocazione turistica ed è in parte una realtà, ma è un settore sul quale dovremmo puntare un po' di più. Allora poi torneremo a parlare di questo. A livello generale stiamo parlando di dati buoni, un mercato che cresce, anche se questo è un mercato ancora molto piccolo, giusto? Esattamente, i dati sono buoni, nel senso che il mercato sta crescendo, quest'anno 2010 è cresciuto di un circa 14% rispetto al 2009 e vale complessivamente 6,5 miliardi di euro, che non è male. È anche vero che 6,5 miliardi di euro sono meno di un centesimo del totale dell'acquistato da parte di consumatori italiani un po' in tutte le categorie, quindi parliamo di un qualcosa che ha un tasso di penetrazione ancora inferiore all'1%. Questo dato va confrontato con altri paesi europei, con gli Stati Uniti, dove quel tasso di penetrazione di questo stesso fenomeno si avvicina a valori tra il 7 e il 10%. Quindi noi siamo, diciamo, arretrati anche da questo punto di vista, ma lo siamo perché in generale internet è meno diffuso, meno utilizzato, oppure utilizziamo internet e non compriamo? Ma come sempre è una concomitanza di fattori, sono vere tante cose. È vero sicuramente che in Italia c'è ancora un po' di arretratezza nella diffusione della banda larga verso le famiglie, c'è un po' una arretratezza nella diffusione dei PC verso le famiglie, e questo è un primo fenomeno. Ma un secondo fenomeno è anche legato all'attitudine del consumatore italiano, a cui piace andare a fare la spesa, tutto sommato, a cui piace poco ancora usare la carta di credito, e questi sono altri fatti reali. C'è anche poi una diffusione dei punti vendita in Italia estremamente ampia, 950.000 punti vendita nelle varie categorie in Italia, dicono che in Italia non è difficile andare a trovare quello che si cerca anche nei punti di vendita fisici. E questo quindi è un primo pezzo, una prima faccia della medaglia. La seconda faccia della medaglia è però che l'offerta di commercio elettronico in Italia è ancora debole, soprattutto l'offerta di prodotto. Alcune categorie merceologiche, quelle della vita quotidiana, penso agli alimentari in prima battuta, all'abbigliamento non di alta moda ma all'abbigliamento più comune, all'arredamento, ai prodotti per la casa, sono difficilmente reperibili online, soprattutto in alcune zone geografiche. Questa è una mancanza di offerta e di usabilità dei siti, o proprio mancano i negozi? No, mancano i negozi. In particolare è il mondo dei negozi tradizionali, diciamo i grandi retailer, la grande distribuzione organizzata, che all'estero è molto presente anche con il canale commercio elettronico, in Italia in molti casi è assente o è presente con dei siti che sono o molto locali o che vendono solo una parte della gamma, cioè non sono convenienti, non presentano un'offerta conveniente. Sì. Abbiamo detto che il 50% e più del mercato lo fanno i servizi. Se noi guardiamo ai prodotti invece che vengono venduti, dove, in quali settori il commercio elettronico funziona? Ha avuto successo? Il commercio elettronico funziona molto bene nell'informatica e l'elettronica e nei libri, che sono ovviamente i prodotti anche più semplici da vendere online perché hanno delle caratteristiche ben definite. Anche come logistica? Anche come logistica, tutto sommato, sì, è abbastanza semplice, ma soprattutto come definizione delle caratteristiche. Tutto sommato uno, nel momento in cui compra un libro o compra un prodotto di informatica ed elettronica, non lo deve necessariamente toccare, sì, in qualche modo, sì, per volerlo comprare. Ma anche l'abbigliamento funziona abbastanza bene. Questo, se vogliamo, è anche un po' strano. Era evidentemente un settore sempre ritenuto difficile da aggredire con il canale commercio elettronico. Invece sì, l'abbigliamento sono 3-4 anni che cresce a tassi del 40%. Io non comprerei mai nulla online, però vedo che c'è un sacco di gente che compra. Vanno presi in considerazione i motivi che rendono conveniente l'acquisto online. In questo caso nell'abbigliamento stiamo parlando di due modelli, il modello del negozio e il modello del club online, che hanno modelli un po' diversi, ma tutti in qualche modo improntati al mettere a disposizione online un qualcosa a prezzi estremamente più bassi rispetto ai negozi fisici. Parliamo di sconti del 50% per capirci. E poi di un servizio di alta qualità, per cui la resa del prodotto, nel caso in cui uno per un qualunque motivo lo volesse rendere, è facilitata, in molti casi è gratuita. Questo rende, in qualche modo abbassa una serie di barriere normali che ci sono da parte del consumatore finale nell'acquistare un prodotto che richiede di essere indossato. Sì. Ma si può tranquillamente comprarlo, indossarlo e restituirlo se non va bene. Sì, questo sicuramente è interessante. Da quello che voi osservate, il commercio elettronico, così come si sta trasformando e si sta diffondendo in Italia, è un'opportunità per aziende italiane che vendono sia in Italia, e magari si dice spesso questa potrebbe essere un'opportunità per vendere anche all'estero a distanza, o invece stiamo assistendo a grandi player internazionali che arrivano sul nostro mercato e colonizzano tramite il commercio elettronico il nostro paese? Oh, sono vere entrambe le cose, stanno accadendo entrambi i fenomeni. In realtà esiste un fenomeno di esportazione attraverso il canale dell'e-commerce, che però è in questo momento concentrato in due ambiti molto precisi, appunto l'ambito del turismo e l'ambito dell'abbigliamento. Nell'abbigliamento il 50% del fatturato delle aziende italiane che fanno commercio elettronico è all'estero. E questo è un'opportunità ovviamente importante per un settore, parlo di abbigliamento fashion di alta gamma, quindi parlo di un settore in cui l'Italia è importante. E poi il mondo del turismo. Ecco, il mondo del turismo avrebbe delle opportunità enormi, perché stiamo parlando di turismo e in ogni caso tutto quello che in qualche modo è incentrato sulla bellezza, sulla valorizzazione della bellezza e dell'arte nel nostro paese. Ecco, lì c'è un'opportunità però ancora debolissimamente colta, perché la maggior parte degli alberghi italiani non è ancora online. D'altra parte c'è anche una frammentazione pazzesca degli alberghi italiani, più del 90% non appartengono a grandi catene. È però vero anche il contrario, cioè l'Italia è anche terra di conquista di operatori stranieri. Grandi operatori internazionali vendono comunque in Italia e magari arriveranno a breve anche ad avere una presenza fisica in Italia. E alcune delle più belle imprese italiane, anche nel mondo del turismo, sono già state comprate da grossi operatori internazionali, penso a Expedia nell'ambito ad esempio del turismo. Quindi sono veri entrambi i fenomeni, bisogna giocarsela valorizzando un po' quelle che sono le specificità italiane, che a mio avviso sono per l'appunto il turismo e il fashion. Bene, io ringrazio Alessandro Perego per essere stato con noi, ricordo responsabile dell'osservatorio, responsabile scientifico dell'osservatorio e-commerce business to consumer che è realizzato da Netcom e dalla School of Management del Politecnico di Milano. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. E così chiudiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, oggi aggiungiamo ai soliti saluti anche gli auguri di buon Natale, di buone feste e anche di buon anno se non riusciamo a sentirci per gli auguri appunto per un buon 2011, ma noi torniamo sabato prossimo sempre tra le 16 e le 17 su Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza in redazione, come sempre ai nostri tecnici. Tra poco sarà disponibile la versione podcast di questo programma. Ancora un saluto e un buon ascolto con i programmi di Radio 24. You are disconnected.